reportage. Turchia ed Europa. Niente più visti nell'area Schengen per i cittadini del paese della Mezzaluna? Di Marco Barbonaglia. Türkiye dört bir yanından terör örgütlerinin ve onlara destek olan güçlerin Noi andiamo per la nostra strada, voi andate pure per la vostra. Dopo l'uscita di scena del premier Ahmet Davutoğlu, che aveva avuto un ruolo di primo piano nella trattativa con l'Europa, Erdogan ha scelto la linea dura e anche l'Europa ha deciso di alzare la voce. Questo non significa che l'accordo sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi nell'area Schengen, mai così vicino come ora, sia saltato, ma il presidente della Turchia ha offerto un netto rifiuto alla richiesta dell'Unione Europea di cambiare la legge sul terrorismo, una tra le condizioni dell'intesa. Ci chiedono di cambiare, ha dichiarato Erdogan, ma si dimenticano che siamo sotto attacco su quattro fronti. Il presidente non è meno interessato di quanto lo fosse Davutoğlu ad ottenere un'abolizione dei visti, che sarebbe una grande vittoria politica, ma sa di avere un asso nella manica, un asso che si chiama immigrazione. L'Unione Europea ha bisogno del suo aiuto per fermare l'ondata di immigrati che arrivano dalla Siria. L'Europa non ha saputo elaborare alcun piano alternativo sull'immigrazione e ora teme che Ankara possa spalancare i suoi confini, dentro i quali ha dato rifugio a quasi 3 milioni di migranti. Perché la Turchia continui a contenere gli immigrati e accetti perfino di prenderne degli altri che l'Unione vuole rimandare indietro, l'Europa è disposta a spendere fino a 6 miliardi di euro, oltre a concedere una liberalizzazione dei visti tanto attesa dai cittadini turchi. Recep Alparslan è un trentenne che ha fondato una società che si occupa di fornire servizi agli stranieri che vanno a vivere in Turchia, studenti Erasmus, ma non solo, e tra le altre cose aiuta anche gli stranieri ad ottenere i permessi di soggiorno. Lui, che lavora sul versante opposto a quello dei turchi che vogliono venire in Europa, ci spiega l'importanza della questione visti. Quando abbiamo bisogno di ottenere i visti per l'area Schengen, dobbiamo raccogliere almeno 40 pagine di documenti e ogni volta dobbiamo pagare 300 lire turche, vale a dire circa 90-100 euro. Alcuni miei amici hanno avuto un visto valido soltanto per 2 settimane e se devono tornare un'altra volta in Europa devono pagare questa cifra di nuovo. Prendiamo un biglietto aereo per 200 lire e paghiamo 300 lire per il visto. Nel caso tutta la trattativa dovesse fallire, non penso ci sarebbe una grande delusione per i turchi. La stessa conversazione di oggi si sarebbe potuta tenere 10 anni fa. Nel 2004 siamo stati candidati per entrare nell'Unione Europea con la Croazia. La Croazia è entrata e per lei non c'è più bisogno di visti, mentre per noi sì. La gente si è sempre sentita dire che non ci sarebbero stati più visti nel giro di 2 o 3 anni. Per 40 anni le vecchie generazioni hanno sentito ripetere questa notizia. Questo sarebbe dunque un notevole successo per un governo. La gente penserebbe: siamo più forti adesso. Ecco perché l'Unione Europea toglie i visti. Ecco perché sarebbe un grande successo per Erdogan legare il proprio nome all'abolizione dei visti per i turchi, un tema al quale una vastissima parte della popolazione è estremamente sensibile. Certo, non manca chi è scettico sulle reali possibilità di arrivare a questo traguardo, come Yeshim, che ha una caffetteria e pasticceria a Kadıköy, nella parte asiatica di Istanbul, è abituata a viaggiare, ha vissuto molto tempo all'estero e per parecchi anni anche in Italia. Io non ci credo. Cioè, siccome hanno detto che c'è tempo fino alla fine del mese di giugno e c'è ancora un mese di tempo, le cose possono cambiare, le idee possono cambiare. Se noi viaggessimo in modo libero, secondo me sarebbe anche un punto positivo per l'economia dei paesi europei, perché noi turchi, cioè la classe media e la classe alta, ovvio, in Turchia quando esce, va all'estero, spende, veramente spende, cioè mangia bene, compra un sacco di cose. Come Yeshim, anche Berna, impiegata di alto livello in un'azienda nel settore energetico, ha vissuto a lungo all'estero, 16 anni a Londra. Sposata con un italiano, ha viaggiato spesso in Europa. Berna, pur riconoscendo i vantaggi della liberalizzazione dei visti, ritiene legittimo e necessario che l'Europa mantenga alcune misure per la propria sicurezza. Era molto difficile per me avere il visto ogni volta che volevo andare, ad esempio, nel paese di mio marito, l'Italia. Ogni volta dovevo preparare molti documenti, mettermi in coda, ottenere un appuntamento. L'eliminazione dei visti sarebbe un bene per le nuove generazioni. Per gli uomini d'affari e gli studenti va bene, ma potrebbe anche esserci gente che cerca di approfittarsene. Per me le cose devono, in un certo senso, rimanere come sono. Bisogna mantenere la situazione sotto controllo, non si può concedere il visto a chiunque. Per me, inoltre, i media esagerano ogni cosa e in Turchia stanno esagerando questa questione dei visti, dicendo non avremo bisogno del visto per andare in nessun altro paese, invece di aspettare che le decisioni siano state prese davvero. I media turchi sono dunque pronti a celebrare la liberalizzazione dei visti, ma l'Europa ha spesso mostrato un atteggiamento ambivalente nei confronti della Turchia. Dell'ingresso del paese della Mezzaluna nell'Unione si parla da tempo e la candidatura della Turchia come paese membro risale a più di 10 anni fa. Ora l'Europa sembra sul punto di concedere una liberalizzazione dei visti che, se non è esattamente un'adesione all'Unione Europea, ci assomiglia molto. Ma questo non perché adesso molti paesi, Francia e Germania in testa, da sempre poco inclini all'ingresso della Turchia, abbiano modificato la loro posizione. Il nodo di tutta la questione rimane l'immigrazione. Un particolare che certo non sfugge a molti turchi, Efkan, giovane giornalista che ha vissuto per diversi mesi in Portogallo come studente Erasmus, lo dice chiaramente. Visa free should be a must. L'abolizione dei visti è qualcosa di necessario, spiega, ma è un po' triste che se ne stia parlando per questo problema di immigrazione. Io credo, sarei sorpreso se accadesse il contrario, credo che avremo questa abolizione dei visti, perché l'Europa non ha scelta, da quanto posso vedere. Ma non penso proprio che sia perché i politici lo vogliono davvero. Purtroppo è a causa di questi problemi di immigrazione. Sono costretti a farlo. Anche Recep Alparslan vede la questione dei visti come qualcosa di strettamente connesso all'immigrazione. Anzi, pensa perfino a questo accordo come ad una possibile trappola. Dopotutto, i turchi sono abituati ai voltafaccia dell'Europa. It's good. There will be travel, there will be commerce between the countries. È una cosa buona, migliorerebbe il commercio, ci sarebbero più viaggi, più scambi tra i paesi, ma dietro c'è l'accordo sugli immigrati, sul quale ho diversi dubbi. Penso che tutto derivi dalla questione degli immigrati. Non sarebbe accaduto nulla se gli immigrati siriani non fossero arrivati in Europa. L'Unione Europea, secondo me, vuol trovare una soluzione più veloce e facile per liberarsi di queste persone, facendo un accordo con la Turchia. Ok, vi togliamo i visti, ma voi vi riprendete gli immigrati. Ci saranno dei controlli, per questo la Turchia sta lavorando a dei nuovi passaporti che permettano questi controlli. Io non penso che l'Europa sia tanto onesta su tutto questo. Credo che in futuro cancellerà questo accordo in qualche modo. Qualcosa succederà e lo cancelleranno, ma a quel punto la maggior parte degli immigrati sarà già dentro i confini della Turchia. Between this time, most of the immigrants will be already in Turkey land. Nel frattempo uno stop alla liberalizzazione dei visti è arrivato dal presidente dell'Europarlamento Schulz, mentre il presidente della Commissione europea Juncker ha specificato, dei 72 criteri decisi, il punto 65 è la modifica della legge sul terrorismo. Se Erdogan vorrà negare ai turchi di viaggiare liberamente in Europa, dovrà spiegarlo al suo popolo. Dura la replica del presidente turco. Da quando, ha risposto Erdogan rivolto all'Unione europea, amministrate questo paese, chi ve ne ha dato il diritto? Per ora la Commissione ha espresso circa 2 settimane fa un parere favorevole all'abolizione dei visti. Un passo avanti in questa direzione, comunque, come ha sottolineato Elmar Brok, presidente della Commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri. I think it's an important step forward. Certo, la Turchia, ha sottolineato Brok, deve soddisfare tutte le condizioni, perciò i commissari hanno scelto di riservarsi la possibilità di sospendere l'accordo, qualora le condizioni non fossero raggiunte. ma io penso che se saranno raggiunte avremo anche dal lato dell'Europa più sicurezza, perché i passaporti biometrici sono molto meglio della situazione attuale. I governi hanno fatto un accordo con la Turchia, questo accordo è utile anche per noi. In ottobre avevamo 10.000 immigrati che arrivavano in Grecia dalla Turchia in un giorno. Questa settimana abbiamo avuto una media di 50 immigrati al giorno. Ma la strada per la liberalizzazione dei visti non è certo tutta in discesa. In Europa c'è chi teme un'ondata di arrivi dalle zone curde della Turchia, dove è in atto un pesantissimo scontro tra esercito e indipendentisti del PKK. L'abolizione dovrebbe entrare in vigore da luglio e se la Commissione ha dato il via libera, le incognite rimangono il Parlamento e gli Stati membri dell'Unione, che dovrebbero esprimersi attraverso il Consiglio a giugno. Non è passato molto, in fondo, da quando l'Olanda bocciò con un referendum l'accordo di associazione tra Ucraina ed Unione Europea. Intanto il rinvio di una riunione tra Ankara e l'Europa e la linea dura scelta da Erdogan fanno moltiplicare le voci che l'Unione possa decidere di dirottare i 6 miliardi di euro sulla Grecia e cercare di gestire con Atene il problema dei migranti. Realtà o ipotesi fantasiose? È presto per dirlo. Di sicuro, per avere la certezza di poter viaggiare in Europa senza visti, i turchi dovranno attendere ancora un po'. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.